Bene, allora buonasera, un caloroso benvenuto a tutti quanti, le signore e signori. Questa è una settimana un po' particolare, abbiamo un po' così scombinato le carte dei nostri appuntamenti, ma siamo felici di farlo e siamo particolarmente contenti anche di ospitare la presentazione del libro, appunto, Scrivere sul confine, perché è un po' la summa di un lavoro che viene svolto dal 95 a Merano in questo concorso letterario. Mi ricordo che all'epoca insegnavo al Beda Weber e c'era la Michela Franco Celani, che avevo come collega, anzi come tutor, e mi raccontava, insomma, che si stava dando da fare, e in effetti i risultati si vedono, sono qui anche con noi nel formato di libro e nei nostri ospiti. Abbiamo con noi Paolo Bilvalente, meranese, giornalista, che stasera ci accompagnerà in questa presentazione. Abbiamo appunto anche Enzo Cocco, che è il responsabile della stampa, diciamo, del premio internazionale, e poi abbiamo anche l'ultimo vincitore dell'ultima edizione, che è Marco Antonelli. È un concorso particolare, insomma, no? Leggevo anche il libro e Merano è una città, direi, ricca, e ieri avevamo Freddy Lungo qua, per dire, quindi insomma a Merano ci sono dei personaggi, abbiamo la biblioteca di Serravalli, insomma è una città che ha saputo essere effervescente e stimolare le persone in varie direzioni, e quindi anche questo premio letterario che nasce, e anzi è stato così portato avanti da una società sportiva, no? Il Passirio, che peraltro conoscevo nelle sue prodezze agonistiche, perché essendo anche una meranese mi è capitato di andare al Combi a vedere a suo tempo delle partite, ma sono ben contenta di avere qui in biblioteca questa squadra e soprattutto anche di parlare di letteratura di confine, che è un tema che sta appassionando il pubblico locale, visto che ci sono varie scuole di pensiero, chi è pro, chi è contro, chi la riconosce, chi non la riconosce, insomma ci sono varie scuole di pensiero, c'è un primo fermento di dibattito che viene portato avanti sui giornali, ma anche nelle biblioteche in questo periodo, e abbiamo avuto qui anche una ricercatrice recentemente che ha sostenuto una tesi, per virgolette, negazionista, e domani ci sarà anche la civica che porterà avanti un altro tipo di confronto, e oggi noi siamo qui invece con i risultati di quello che invece può dimostrare che esiste una letteratura di confine e che è anche molto di qualità. Io vi ringrazio anche Mazza, che è il responsabile insieme a Coleselli della casa editrice. Vi auguro una buona serata e buona lettura a tutti. Grazie. Va bene, allora a me il compito di rompere il ghiaccio. Buonasera, vi è già stato detto chi sono qui in rappresentanza del Passirio Club, che, come giustamente è stato detto introducendo, era una società sportiva. E come mai questa società sportiva sia arrivata ad occuparsi di letteratura è ciò che in breve cercherò di raccontarvi. Allora, il Passirio era una squadra di calcio molto blasonata, che ha vinto tutto ciò che c'era da vincere in campo regionale ed extra regionale, e così è stato fino al 1973, quando alterne vicende che ora vi risparmio portarono ad una decisione molto, molto discussa a quel tempo di sciogliere la squadra di calcio. Ci furono dei contrasti con i vertici calcistici provinciali e regionali, che fecero sì che questa squadra così blasonata decidesse in maniera piuttosto pesante di non partecipare più ai campionati di calcio. Cosa è successo a quel punto? Che questi signori che avevano animato lo sport della città di Merano per molti anni si sono ritrovati in mano una struttura societaria, un consiglio direttivo e una serie di elementi organizzativi al contorno, una sede che era strapiena di coppe di tutto ciò che era stato vinto, e si sono domandati, beh, e adesso che facciamo? Non è che perché abbiamo sciolto la squadra di calcio chiudiamo, sigilliamo tutto e ce ne andiamo. No, ma maturò così l'idea di trasformare il Passilio Club in un circolo culturale, circolo culturale e anche di fruizione del tempo libero. In questo contesto, nel 1973, la professoressa Michela Franco Celani, che aveva per la testa l'idea di organizzare un premio letterario, contattò il presidente di allora e di oggi, che è l'amico Gilberto Bardi, il quale venne proprio letteralmente fermato per la strada da questa signora che gli disse: lei è il presidente così e così? Sì, sì, sono io. Senta, ma perché, visto che fate un'attività adesso di tipo culturale, non pensate all'idea di organizzare un premio letterario? Detto fatto, Bardi, che è sempre stata una persona molto vulcanica e pronta ad acquisire le nuove idee, disse: beh, perché no, si può fare. E così si mise in moto la macchina organizzativa per la prima volta nel 1973 di questo che chiamammo Premio Letterario Merano Europa. Il significato era evidente: Merano è una città, è stato anche detto introducendo questa nostra breve conversazione, che si presta ad essere una città che fa da ponte, quasi equamente ripartita la popolazione di lingua italiana e tedesca, presenza di entrambe le culture, e elementi di questo tipo fanno sì che Merano abbia questa particolare caratteristica. E quindi il ponte che noi volevamo gettare quando abbiamo fatto nascere questo premio era proprio quello tra Merano e il resto dell'Europa, o comunque la cerniera tra la cultura italiana e la cultura tedesca. Da qui nacquero quelle che erano le sezioni che componevano il nostro premio letterario, tre fondamentalmente, poi nel tempo sono anche cambiate, ci sono state delle modifiche, però sostanzialmente erano fondate sulla scrittura ex novo, e quindi di testi di autori che si presentavano per la prima volta, non editi, di conseguenza inediti, sulla poesia e su una cosa che nacque allora e che col tempo è diventata sempre più importante: la traduzione di una lirica dal tedesco. Questo era l'elemento che faceva da ponte, come noi volevamo, al concetto di Merano Europa. Si svilupparono così nel tempo le varie edizioni del nostro premio, hanno partecipato persone che poi sono diventate illustri personaggi del mondo del cinema, per esempio tra questi proprio Ivan Cotroneo, che dovreste aver conosciuto recentemente perché è salito agli onori della cronaca per le sue opere sia come sceneggiatore che come regista. Ebbene, Ivan Cotroneo fu il primo a vincere il premio letterario Merano Europa. Abbiamo avuto nel corso del tempo alcune modifiche, alcune variazioni, perché si sono introdotte delle sezioni, per esempio quella della narrativa per ragazzi, che al tempo in cui è stata introdotta vide anche in Paolo Valente un anno il vincitore di questa sezione. Abbiamo avuto una sezione molto vivace dedicata alle opere teatrali. Qual è la caratteristica di questo premio? Ecco, direi che la caratteristica principale è quella che i giurati, quando valutano le opere, non sanno di chi sono. Cioè, valutano in assoluto equilibrio e senza essere condizionati dal nome dell'autore. Questo direi che è un elemento estremamente interessante, che non si riscontra in molti premi letterari e che ha rappresentato la caratteristica e continua a rappresentare la caratteristica di questo nostro premio, che è biennale e che si celebra, passatemi il termine fra virgolette, negli anni dispari. Quindi è stato nel 2013, sarà nel 2015, ma la sua preparazione richiede più di un anno di lavoro, e questa è la ragione per cui l'abbiamo fatto biennale. La caratteristica è quella appunto dei giurati che non conoscono il nome dell'autore che stanno leggendo. Abbiamo definito alcune regole che vi risparmio, perché non è il caso di entrare molto nel dettaglio, quante pagine possono scrivere, i temi, non temi, cose di questo genere, le lasciamo solo agli addetti ai lavori. ma sostanzialmente abbiamo due giurie, una prima giuria fatta e scelta tra persone anche qualificate all'interno della cerchia della città di Merano e non solo, ed ecco una delle ragioni per cui siamo qui questa sera, perché vorremmo anche allargare questa cerchia, vorremmo coinvolgere molto di più di quanto non sia stato fino ad oggi anche gli amici di Bolzano, che per nonostante 20 anni di premio letterario hanno candidamente dichiarato in un'altra occasione in cui abbiamo presentato come questa sera di non aver mai saputo che esistesse un premio letterario Merano Europa. È possibile, però questo ci ha spinto a uscire un pochino di più dal guscio e venire a fare presentazioni di questo tipo qui questa sera. Domani andremo a farlo anche a Degna, perché vorremmo che piano piano il nostro premio, che pur sarà sempre un premio meranese, avesse però una connotazione più ampia, più un respiro più provinciale, più allargato alla provincia. Dicevo, una giuria di selezione e poi le opere selezionate dalla giuria, che quantitativamente cambiano soltanto in funzione di quante ne arrivano, ma l'anno scorso ne abbiamo avute 500 tra narrativa, poesia e traduzione, il che non è poco, e implica un lavoro di selezione da parte dei giurati che dura qualche mese. Ecco la ragione per cui non lo possiamo fare tutti gli anni, perché sennò non faremo neanche il tempo a finirne uno, che ne cominciamo già un altro. Siamo arrivati felicemente fino all'edizione numero 20 dello scorso anno, introducendo due importanti, sì, numero 10 del ventennale dello scorso anno, introducendo due importanti novità. La prima è stata questo allargarci alla collaborazione con una casa editrice, e qui colgo ancora l'occasione per ringraziare Aldo Mazza e tutti i suoi collaboratori, perché hanno mostrato la sensibilità necessaria a capire che quell'abbraccio che noi cercavamo era proprio un abbraccio vero, nel senso che avevamo bisogno di qualcuno che anche dal punto di vista editoriale ci sostenesse. La seconda cosa che abbiamo realizzato lo scorso anno e della quale siamo particolarmente orgogliosi, è arrivata con un po' di ritardo, la inseguivamo da tempo, la inseguiva persino la Celani ancora nel momento in cui propose l'idea, è stata quella di riuscire a collaborare con il Lyric Prize, che è un premio della lirica e della poesia che c'è a Merano, anche lui a cadenza biennale e guarda caso negli anni opposti ai nostri, quindi negli anni pari. In che cosa è consistita questa collaborazione? Abbiamo stipulato un accordo che proseguirà anche nelle prossime edizioni, per cui l'opera che viene proposta per la traduzione in italiano è l'opera vincitrice del Lyric Prize, e questo aggancia ancora di più il mondo italiano, il mondo di lingua tedesca, realizza ancora di più ciò che noi abbiamo sempre avuto in mente sin dall'origine, cioè costruire ponti. Il Merano Europa sta a significare proprio questo, e in questa ultima edizione, oltre ad aver fatto questi due accordi particolari, evidentemente frutto del primo di questi due accordi, cioè quello con Alfabeta, è il libro che questa sera vi vogliamo presentare e che non a caso si intitola Scrivere sul confine. L'autore, colui che lo ha coordinato, ha interpretato, direi, nel modo più opportuno, utilizzando proprio questo titolo. Questa sera abbiamo qui con noi Paolo Valente, che ci racconterà un po' la genesi del libro, ma soprattutto abbiamo il vincitore dell'ultima edizione, che è qui vicino a me, Marco Antonelli, con il quale potremo un po' conversare e che ci leggerà sicuramente un passo a sua scelta del racconto che l'ho portato a vincere questa decima edizione. Ecco, io credo di avervi detto tutto, di non avervi tediato. Quello che mi interessa trasmettere come messaggio è proprio questa volontà di allargare le maglie del nostro premio letterario alla partecipazione anche di gente che abbia voglia di farlo, anche come giurati per esempio, e forse qualcuno di voi già potrebbe in questo senso dare la propria disponibilità, perché la prossima edizione non è poi così lontana, e se avessimo qualcuno anche dal capoluogo ne saremmo particolarmente felici. Ringrazio. Grazie. Brevemente, perché poi credo che siamo tutti curiosi di sentire Marco Antonelli che ci legge. Cos'è? Acqua. Vai. Lasciamo qua, non ci interessa, non ti piace. Che ci leggerà alcune pagine del suo racconto, il racconto vincitore appunto della decima edizione del premio Merano Europa. Io vi presento brevissimamente il senso di questo volumetto che, come ha detto Enzo, nasce essenzialmente dalla collaborazione tra il premio Merano Europa e la casa editrice Alfa Beta. Che, come diceva Enzo, è una delle novità importanti dell'edizione numero 10 e speriamo anche dell'edizione numero 11, 12, eccetera. Il libro, che si intitola appunto Scrivere sul confine, raccoglie i 10 racconti vincitori delle 10 edizioni. Come è stato detto, la sezione principale, se vogliamo, è sempre stata quella della narrativa, e questa sezione naturalmente ha visto, tranne che un anno, sempre un vincitore sul podio, sul gradino più alto del podio. Ecco, questi 10 racconti sono stati raccolti in questa antologia. Il primo dei vincitori è Ivan Cotroneo, citato prima. Fu lui a vincere per la prima volta il premio Merano Europa e per ricordare quell'evento c'è anche un suo intervento introduttivo all'antologia, Quella persona tra un milione, dove racconta appunto il suo incontro con Merano e col premio Merano Europa. Per quanto riguarda il premio, ci sono queste due parole, Merano Europa, che hanno mille significati. Se parliamo di Europa, ecco, ci dobbiamo un po' affidare anche alle congiunture, e forse questo non è il momento, diciamo, di maggior gloria di questo, di questa idea, però esistono persone che credono nella, diciamo, perdere gli aspetti istituzionali, ma che credono profondamente nel progetto europeo. E forse tra queste persone dovremmo essere in modo particolare noi altoatesini, perché fa parte della nostra storia vedere nell'unificazione europea la prospettiva che fu data nel momento che Austria e Italia, all'indomani della Seconda Guerra Mondiale, seduti attorno a un tavolo, loro malgrado, firmarono un accordo, l'accordo di Parigi, nella prospettiva appunto dell'Unione Europea. Quell'accordo si comprende e quell'autonomia si comprende solamente nella prospettiva di un superamento dei confini nazionali e nazionalistici, così come erano stati intesi dalla seconda metà dell'Ottocento alla prima metà del Novecento. Solo pensando ad un'Europa che faccia andare i popoli oltre i propri confini, si comprende il senso di quell'autonomia provinciale, regionale. Fu firmato quell'accordo da uno che è considerato appunto uno dei padri dell'Europa, Alcide De Gasperi. Per quanto riguarda Merano, invece, non voglio dilungarmi oltre, perché qualche commentatore ha anche scritto da qualche parte che siamo un po' campanilisti quando parliamo di Merano, allora non voglio aggiungere, buttare benzina sul fuoco. Invece darei la parola a Stefan Zweig, uno dei molti scrittori che sono passati nel corso della storia a Merano, si sono fermati, hanno tratto ispirazione da quei luoghi e ne hanno dato una descrizione che a me ha sempre colpito molto. è un brano scritto nel primo decennio del secolo scorso, anche se è stato pubblicato poi nel 1919 nella raccolta Fartenlandschaften und Städte. Il brano si chiama Herbstwinter in Meran, ormai con la primavera e col caldo, è vero. E questo è un piccolo brano. La città stessa, antichissima come rivelano i portici ed i castelli, ha pure residenze nobiliari e nuove ville di buon gusto e quindi fonde passato e presente in un insieme gradevole. Bianca e tuttavia immersa nel verde di parchi e giardini pubblici, si estende gradualmente verso i prati ed i vigneti che a loro volta salgono verso le scure selve. I boschi si perdono in alto scalando le rocce, il cui grigiore viene coperto progressivamente dal freddo biancore delle nevi, e l'alta linea dentellata delle montagne si staglia contro il blu del cielo infinito. Il ventaglio dei colori qui si apre con toni puri e chiari. Nulla stride, e tutti gli opposti si risolvono armoniosamente. Il nord e il sud, la città e la campagna, la Germania e l'Italia. Tutti questi aspri contrasti si fondono placidamente e persino gli elementi più ostili sembrano qui concilianti e familiari. Nel paesaggio non ci sono movimenti bruschi, da nessuna parte c'è una linea spezzata o infranta. Qui la natura ha scritto sul mondo con grafia equilibrata e tondeggiante e con lettere multicolori la parola pace. Non so se è un sogno, un miraggio, anche perché se pensiamo che pochi anni, pochissimi anni dopo che Zweig scrisse questo testo scoppiò quella che chiamiamo la Grande Guerra, che toccò naturalmente anche Merano ed ebbe tutte le conseguenze che conosciamo anche sulla nostra provincia e regione. Però, quest'idea dei contrasti che in qualche modo sono presenti, perché qua Zweig elenca un sacco di cose che sono l'una il contrario dell'altra, che però si conciliano, c'è questa possibilità di convivenza, di conciliazione, di riconciliazione tra gli opposti. Ecco, questa ci piace pensare che sia un po' la vocazione di una città come Merano e anche di una provincia come l'Alto Adige, direi, cioè quella di non annullare le differenze, non nemmeno sottolinearle eccessivamente, ma farle convivere in modo da trarne arricchimento gli uni dagli altri. Detto questo, passerei senz'altro la parola a Marco Antonelli, che si presenta da solo e ci leggerà quello che ha preparato. Grazie. Allora, grazie innanzitutto dell'invito, ovviamente, insomma, è un piacere essere qua. Il piccolo antefatto è questo: quando Coco mi ha chiamato, mi ha detto guarda, ci sarebbe da fare questa cosa, ho detto ben volentieri. Ci sarà un reading, verrà qualcuno che leggerà, perfetto. Poi qui di fronte alla porta mi ha detto no, sei tu che dovrai leggere. Gli voglio bene lo stesso, ma insomma, va bene. Io volevo sicuramente leggervi qualcosa del racconto. Vi spiegherò un pochettino di che cosa tratta, perché poi vi leggerò solamente le ultime due pagine, insomma, per non tediarvi ulteriormente. Però ecco, una cosa ci tenevo a dirvi, che io trovo bellissimo che persone come voi alle 6 di sera, alle 6 e mezza di sera vengano qua ad ascoltare uno che non hanno mai visto e probabilmente non vedranno mai tutto il resto della loro vita, che non è famoso, e presume, immagino, per il piacere della scoperta, no? Io non so perché, ma penso che sia questo che vi ha mosso a venire qua, no? Scoprire qualcosa di nuovo, provare ad ascoltare storie di persone che non conoscete. Questo è il senso, dal mio punto di vista, del raccontare storie, che sta alla base, se volete, della letteratura. Una volta una persona mi ha insegnato che leggere un libro è semplicemente stare vicino a un signore che ti dice adesso ti racconto una storia e tu l'ascolti, e questa è una cosa bellissima secondo me, no? Io ho imparato così a leggere e poi vabbè, ho scoperto che è qualcosa di più complesso di questo, ovviamente la lettura, però questo mi piaceva. Va bene, dai, il racconto incriminato, diciamo così, si chiama Arco di Trento. Arco è una città qui vicino a Trento, in realtà si chiama semplicemente Arco, ma non so perché a Milano noi la chiamiamo Arco di Trento, e quindi il racconto l'ho intitolato in questo modo. Arco di Trento narra una storia, racconta una storia, i protagonisti sono una madre e un figlio, non sono io, non è autobiografico il racconto, però sono una madre e un figlio. La madre è ricoverata in un ospedale psichiatrico che si trova per l'appunto ad Arco, e domenica il figlio la va a trovare. Il senso del racconto è questa giornata che passano insieme, questa ricerca disperata della normalità. La situazione ovviamente non è normale, no? Una madre in un ospedale psichiatrico, il figlio che la va a trovare, non c'è nulla di normale nella norma in tutto questo, però loro tentano di vivere questo pomeriggio nel modo più normale possibile, quindi scherzano, ridono, si raccontano, ovviamente insomma, no? C'è il dolore alla base di tutto questo, però insomma, loro tentano un po' di dimenticarselo e di vivere questo momento con normalità, che è la parola secondo me chiave. Vanno a mangiare insieme e poi si fa pomeriggio, e all'entro le 4 deve rientrare la mamma, diciamo, deve rientrare, quindi il figlio la dovrà accompagnare. Volevo leggervi proprio un po' l'ultima parte: stanno finendo di mangiare, e quindi da lì in poi insomma, cioè, si svolge proprio l'ultimo piccolo pezzo del racconto. Quando mangiamo torno a guardarla, ha la schiena rigida come sempre, il tovagliolo nella mano sinistra. Si pulisce le labbra dopo ogni boccone, le mani tremano leggermente, ogni tanto le scivola qualcosa dalla bocca, è solo saliva, qualche volta un pezzetto di pesce, ma di quelli se ne accorge e si pulisce immediatamente. Mi versi dell'acqua, devo prendere le pillole. Ti ricordi quale devi prendere? Le hai portate tutte? Sì, sono nella borsetta. Estrae una piccola scatola di plastica bianca, prende due pillole rosa e le inghiotte. Poi una capsula colorata, sembra assurdamente allegra come una caramella. Mangio un pezzo di pane e se la infila in bocca. Ci mette un po' a declutire. Alza lo sguardo, mi sorride. Io le faccio le solite domande su quante pillole deve prendere, su come deve essere difficile ricordarsi di tutte. Lei sorride di nuovo, poi ne prende un'altra. Grande, bianca, ha le dimensioni di un pollice. Ma il mio non il suo, che è piccolo, come quello di una bambina. La mette dentro il tovagliolo, poi ci batte sopra con il manico del coltello. Alla fine si bagna il dito con la saliva e raccoglie la polvere. La infila sotto la lingua. È amara, mi dice. Riprendiamo a mangiare. Parlami adesso, raccontami del tuo lavoro. È il nostro piccolo gioco, quello. Me lo aspettavo, quindi sono preparato. Mi asciugo la bocca, bevo, congiungo le mani come in segno di preghiera e le avvicino alla fronte. Poi comincio a parlare di quello che faccio, del mio lavoro, di come lo affronto, di come lo vivo. Usando un linguaggio volutamente difficile, complicato, tecnico, un gergo scientifico da esperti, e lei se ne sta lì, affascinata. Non capisce quasi nulla di quello che le dico, eppure non perde una parola. Io racconto, descrivo, spiego. Ogni tanto favoleggio, mischio verità impossibili a bugie verosimili. Non parlo quasi mai di me, ma di quello che faccio e come lo faccio, di come lo realizzo, di quali strumenti uso. Cosa ci sta dietro, insomma? È come quando ero piccolo, 8-9 anni. Allora avevo il permesso di andare nel letto matrimoniale, il lettone, come dicevo allora. Solo una volta alla settimana, la domenica mattina. Lì mi aspettava mia madre, sempre sveglia quando arrivavo. Ogni domenica mattina mi spiegava qualcosa. Roba tecnica, roba difficile, come funziona una banca, come si fabbrica una lampadina, che cosa sono le comete, come si costruiscono i grattacieli. Una volta mi ha raccontato come si faceva il vetro, ma quella è stata l'ultima. Io rimanevo affascinato ad ascoltarlo, lei era tutta la mia famiglia. E poi sapeva tutto quello che avrei voluto sapere. Quindi era tutto ciò che mi serviva, ero felice. E quelle domenica mattina non me le sono mai dimenticate. Molti anni dopo ho scoperto che lei passava sabato sera a leggere quelle cose su una vecchia enciclopedia. Il conoscere. Quella con la copertina rigida rossa e le scritte dorate. Poi la mattina dopo me le ripeteva. Come fosse un suo patrimonio personale da condividere con me. E per questo che quasi 20 anni dopo gioco a fare questa piccola pantomima, così, per restituirle il favore. ogni tanto faccio in modo che lei mi domandi qualcosa, una domanda pertinente, magari complicata, adatta a quello che sto dicendo in quel momento. Le metto le parole in bocca, ma lascio che lei trovi il suo tempo. Alla fine lei la fa quella domanda e si guarda intorno per scoprire se c'è qualcuno che la sta osservando, sperando che ne ascolti le parole, che ne colga l'attenzione. Qualcuno che, sentendola parlare, non possa avere nemmeno il sospetto che la sua mente è devastata e il suo spirito in agonia. Nessuno che possa neppure immaginare che fra meno di 2 ore tornerà in un ospedale dove non le fanno usare la forchetta e il coltello. Io allora sgrano gli occhi e la osservo con uno sguardo stupito, come se proprio non mi aspettassi quella domanda. Poi le rispondo, approfondisco, analizzo, spiego di nuovo. Infine le porgo un'altra domanda, in attesa di ricominciare. Il nostro gioco continua a lungo. Lei sembra assorta e non vorrebbe smettere più. Io l'osservo mentre si lascia scorrere le parole addosso e si chiude nel suo silenzio senza fine. Ma poi guardo l'ora. È tardi. Concludo in fretta il mio gioco e ripiego il tovagliolo. Lei riapre gli occhi e si guarda le mani. È il segnale, lo sappiamo entrambi. Il ristorante è deserto adesso. Qui si mangia presto. Alle 2 passate non c'è più nessuno. Beviamo il caffè, decaffeinato e con latte per lei, ristretto e senza zucchero per me. In fondo anche questa è una differenza fra noi. Il sole è sparito e la luce fuori si è fatta debole. Il lago un po' più scuro e il vento è tornato a spazzare le onde. Chiedo il conto, intanto guardo fuori dalla vetrata. 5 ore passano veloci, soprattutto se le aspetti per 2 settimane. Volano via che nemmeno te ne accorgi. Ma ci sono delle regole, quindi è ora di rientrare. Punto. La strada al ritorno sembra più breve, la percorriamo in pochi minuti, per lo più in silenzio. I colori sono meno intensi, le ombre appiattiscono tutto, non c'è più profondità, sono una specie di foschia. Ora sembra inverno, veramente. Ci fermiamo qualche minuto in paese, alcune cose da comprare, biscotti, marmellata di arance, calzini, grissini all'acqua, un paio di guanti di lana, qualche rivista, ma che sia illustrata e con i caratteri grossi, poi veramente tardi. E la salita la facciamo in fretta. Rallento solo sui tornanti, non posso permettermi che lei stia male. Sono le 3:05. Parcheggio, questa volta più lontano dal piazzale, perché il piazzale è pieno, è domenica ed è orario di visite. Siamo davanti al portone, mia madre mi tiene per mano, mi segue come fosse una bambina, poi d'improvviso si ferma. Che ore sono? Mancano 2 minuti. Aspetta allora. E rimane ferma, davanti al cancello, non guarda nulla. Da qui la vista del lago è splendida, anche se è grigio cupo. Ma lei non guarda, si dondola su un piede e poi su un altro. Io lo sguardo rivolto al portone di legno, ma non lo vede. Siamo proprio in mezzo al passaggio, e alcune persone ci urtano. Qualcuno ci chiede di spostarci, ma lei non sente nulla. Non vede e non sente nulla. Rimane immobile. E io aspetto di fianco a lei. E ora? Sì, mamma. Allora andiamo. Entriamo. Lei aveva preso la sua stanza e io mi fermo a firmare le carte del rientro. 5 minuti di ritardo, va bene. Sarò più attento la prossima volta. Poi passo dal dottore e gli racconto com'è andata. Soprattutto gli racconto di quanto lei ha capito che volevo portarla lontano, perché nessuno la riconoscesse. Lui mi sorride e mi batte una mano sulla spalla, non dice nulla, scrive qualcosa su un foglio, poi mi saluta e ritorna alle sue occupazioni. Io salgo in reparto con le braccia appesantite dai sacchetti del supermercato. Dovrò svuotarli e portarli via, niente sacchetti di plastica qua. Mia madre è seduta sul letto, si è già cambiata, vestaglia di lana e il pigiama maschile, sembra più vecchia ora. Vai, è tardi, poi cala la nebbia. Sì, adesso parto. Non ti serve niente? No, stai tranquillo. Va bene, ci vediamo fra 2 settimane, chiamami quando puoi. Sì, ti chiamo. Sei il mio amore grande, lo sai? Lo sai? Sì, mamma, dammi un bacio che vado. La bacio, è sudata. Trema un po' di più, la sua pelle è scotta, è solo stanca, credo, troppe emozioni. Non ci ho più abituata, le prime volte mi spaventavo. Poi ho scoperto che era sempre così, ogni volta che ripartivo. Esco svelto dall'ospedale, fra poco comincia il traffico e voglio evitarlo. Poi devo vedermi con un paio di amici e uscire a cena. Risalgo in macchina. Non sono nemmeno le 4 e devo già accendere i fari. Anche il riscaldamento, perché ormai fa freddo veramente. Riparto e percorro di nuovo la stessa strada, fuori dal parcheggio, la discesa, il paese, più velocemente questa volta. L'autostrada scivola via, mentre le luci delle altre macchine mi arrossano gli occhi. Casello, casa, doccia di nuovo fuori. La sera scorre tranquilla, ci sono poche domande e pochi sguardi. È un insolito calore che mi prende lo stomaco. Sorrido se c'è da sorridere e ascolto se c'è da ascoltare. Quando giunge un orario decente mi invento una scusa per tornare a casa. Ci sono sempre scuse buone per chi vive da solo. Arrivo a casa, di nuovo doccia. Preparo i vestiti per il giorno dopo e mi scaldo un po' di caffè. Lo bevo in silenzio. Lavo la tazza, la lascio sgocciolare sul lavandino e poi mi infilo a letto. Finalmente appoggio la testa sul cuscino. Sono stanco, infinitamente stanco. Ho solo voglia di chiudere gli occhi e riposare. Guardo l'orologio. fra 10 minuti, è già lunedì. Non sono un lettore, come avete sentito, per cui insomma tradisco un po' di emozione, e non è data dalle persone, per il mestiere che faccio decine e decine di convegni all'anno, ne ho fatti più di 500 in tutta la mia vita, quindi sono abituato ad avere persone davanti a me. È completamente diverso quando leggi una storia, è un'emozione bellissima, è un bellissimo regalo che mi avete fatto, davvero, grazie. Allora, di fronte a questo uditorio avete sentito un po' di cose, se avete delle domande, delle curiosità da soddisfare, siamo qui per questo, sia l'autore che il curatore dell'antologia, che il sottoscritto per quanto riguarda ciascuno la propria parte. C'è qualcuno che vuole rompere il ghiaccio? O si è inspessito così tanto che non resta la possibilità di farlo? Prego. Io sono uno tra coloro che non conoscevano il premio letterario, e mi viene da pensare prima dell'edizione che raccogliesse i 10 vincitori della sezione narrativa, i premi come si vengono a conoscere, per esempio, cioè, avete lo stesso una pubblicazione? Rispondi tu. Come se, tu intendi come si viene, diciamo, uno, se uno vuole partecipare, no, per esempio. Conosce, a conoscenza. Ah, ok. Beh, questa raccoglie. Sì, sì, questa infatti è una cosa fatta a regola d'arte, proprio perché c'è questa collaborazione con l'editore, ma mi pare, io non sono uno della prima ora, no? Ma diciamo nelle ultime edizioni i brani vincitori sia della sezione narrativa che anche della poesia eccetera sono comunque stati raccolti in piccoli quaderni, e c'è un sito internet del Passirio, solo che appunto uno pensa è la squadra di calcio, quindi no, c'è il nostro sito www.passirio.it nel quale si possono anche leggere tutte le opere che si sono state presentate. Non abbiamo potuto mettere nel sito però anche per una questione proprio di dimensione, proprio tutto, nel senso che ci sono stati degli anni in cui avevamo 5 sezioni e mettere le opere di tutte le 5 sezioni era piuttosto difficoltoso. Questa è anche una delle ragioni per cui già nella passata edizione e anche nelle prossime abbiamo ristretto il campo d'azione alla narrativa, alla traduzione della lirica dal tedesco e alla poesia, anche qui poi introducendo un aspetto nuovo che è quello della poesia edita, contrariamente al fatto che la narrativa è inedita, e questo l'abbiamo dovuto fare per cercare di sfrondare un po', perché arrivava di tutto e effettivamente il livello qualitativo lasciava un pochino a desiderare. Allora abbiamo posto una barriera che fosse quella della poesia edita, pensando che se qualcuno l'ha già pubblicata molto probabilmente è una poesia che vale qualcosa, altrimenti non sarebbe stata pubblicata. Poi abbiamo anche fatto uno sforzo consistente, mi sono dimenticato di dire prima e approfitto, per elevare il tasso di qualità delle opere, e l'abbiamo elevato sostanzialmente in due modi. Il primo, che non so se riusciremo a fare ancora, e cioè dando una dotazione al premio piuttosto consistente, perché se andiamo a vedere non ci sono molti premi in circolazione di questo livello che erogano 4.000 euro al vincitore, per cui abbiamo sostenuto l'impegno di fare questa cosa. Se andate a vedere trovate premi che erogano 400 euro, non 4.000, per cui questo da un certo punto di vista serve a selezionare, e da un certo punto di vista però invoglia gli autori a presentare opere, e mi sono tra le altre cose vi devo dire che abbiamo avuto opere provenienti sempre in tutte le edizioni da tutta Italia, anche dall'estero. C'è gente che ci ha mandato materiale dal Canada, dalla Turchia, quindi non sto citando paesi vicini a noi, sono arrivate anche le opere per esempio per quanto riguarda la traduzione dalla Germania o dall'Austria, ma una traduzione è stata vinta da una che stava a Londra, opere sono state presentate anche appunto da paesi molto lontani dall'Italia. Questo per dire che il premio ha un suo prestigio ed è molto conosciuto nell'ambito letterario, lo è meno presso il pubblico, e questa è la ragione per cui stiamo cercando di diffonderlo anche con iniziative di questo genere. La seconda cosa che abbiamo introdotto per cercare di elevare la qualità è stata quella di andare sempre in crescendo con la composizione della giuria, soprattutto con la composizione della giuria il secondo livello, la chiamiamo noi, quella cioè che valuta le opere che sono state selezionate dalla giuria di primo livello. E quindi abbiamo avuto fra i vari giurati che si sono avvicendati nel tempo personaggi di un certo rilievo, come per esempio Maria Grazia Mazzitelli, che mi viene in mente, è una nostra fedele giurata ed è la persona che ha portato Harry Potter in Italia, quindi una casa editrice di massimo prestigio, e avere questa persona con noi è già importante. Ma poi abbiamo portato nomi anche più conosciuti al vasto pubblico, e quindi ecco Francesca Melandri, che fa parte della nostra equipe ormai da tre edizioni. Abbiamo il presidente di giuria, che è Ruggero Po, un giornalista che tutte le mattine entra in casa di milioni di italiani attraverso la sua trasmissione radiofonica Radio Anch'io. Abbiamo avuto Caprarica, abbiamo avuto un sacco di altri personaggi, proprio perché la partecipazione che noi vogliamo stimolare è quella, lasciatemelo dire, dei più bravi possibilmente, ecco. E non è stato facile per i giurati, così ci hanno detto, di anno in anno riuscire a cogliere proprio, magari ci sono delle sfumature, abbiamo un sistema di punteggi al termine del quale si arriva ad avere il candidato che ha raggiunto il punteggio maggiore, però insomma è un lavoro di selezione piuttosto complesso. E il lavoro, diciamo, di fra virgolette chiamiamola manovalanza, ma non è l'espressione proprio più adatta, ma per dire il lavoro di scrematura, ecco, cioè andare a leggere qualche centinaio di opere, lo facciamo attraverso un certo numero di giurati che non le legge tutte, perché sennò materialmente non ce la faremo proprio. Quindi ci sono gruppi, si formano dei gruppi, scegliamo delle opere che facciamo leggere a tutti, vediamo in che modo vengono valutate queste opere che tutti hanno letto e stabiliamo un parametro, una valutazione, in base alla quale poi arrivare al punteggio anche per quelle che non fanno parte di questa scaletta, diciamo. Così facendo riusciamo a raggiungere un metodo di valutazione abbastanza efficiente. La perfezione ovviamente non c'è mai, comunque anche il numero delle opere che proponiamo, poi alla fine andiamo a vedere che gira e rigira, quelle che sin dall'origine erano le chiacchierate, alla fine sono quelle che vengono effettivamente a entrare nel novero dei finalisti, e quindi poi quando siamo al novero dei finalisti siamo già ad un certo livello, per cui la scelta diventa ardua da un certo punto di vista e più facile da un'altra, perché certamente i contenuti sono di maggior pregio, ecco. Comunque alla fine vince sempre il migliore. Sì, questo è fuori di dubbio. Se posso aggiungere una cosa un pochettino più tecnica, una delle cose che io ho apprezzato di questo premio è il fatto della possibilità di fare un racconto, di spedire racconti abbastanza lunghi. Normalmente i premi limitano tantissimo il numero di battute, il numero di cartelle, ed è abbastanza difficile fare un buon racconto. Poi ci sono degli esempi fantastici, però in realtà è abbastanza difficile fare un buon racconto con poche pagine. Questo permette insomma di poter sviluppare un po' meglio la storia. Non sono molti, devo dire, capisco anche la difficoltà, perché vi arriva cose da leggere che non sono di 3 pagine ma di 30 magari, e quindi è più complicato, però per l'autore è bello, insomma, no? Hai spazio, no? E questa è anche... Tra l'altro questa è una scelta che è emersa, ti lascio subito la parola, è una scelta che è emersa proprio nell'ultima edizione, quando su consiglio della nostra casa editrice che ci appoggia, Alfabeta, abbiamo proprio aumentato il numero di caratteri a disposizione dell'autore, perché ci eravamo resi conto che i 15.000 che noi avevamo dato come livello massimo nelle precedenti edizioni erano comunque troppo pochi per sviluppare bene la trama di un racconto. E infatti si nota, se avrete la bontà di acquistare e leggere la nostra antologia, che i racconti della prima parte, quasi tutti, quindi qualcuno sembra troncato lì perché aveva finito il numero di caratteri a disposizione, ma in realtà molto probabilmente l'avrebbe finito in un altro modo, no? Bravi sono stati comunque quelli che sono riusciti a dare e a trasmettere qualcosa anche con pochi caratteri, ma è vero quello che ha detto Antonelli, cioè ci siamo spostati su una quantità di caratteri maggiore proprio per dare più respiro e per dare la possibilità di presentare opere che abbiano capo e coda, ecco. Aldo, volevi aggiungere? Tanto da ricordare, perché siete un po' dimenticati, che tra le cose che abbiamo aggiunto è anche il premio della Ah, è vero. Dillo. Allora, tra le cose che avevamo aggiunto, oltre al premio per la narrativa erogato, diciamo, dal Passidio Club, c'è il premio dell'editore. E quest'anno i due premi sono coincisi nella stessa persona, però magari una prossima edizione potrebbe anche non essere così, però l'editore ha voluto pensare di mettere in palio un premio per quell'opera che esprime il potenziale migliore, ecco. E in questo senso Aldo, che ha suggerito la cosa, ha focalizzato un aspetto che noi fino a questo momento non avevamo ancora messo bene in evidenza, però è importante perché così si può attribuire un premio anche non solo in funzione della bontà del racconto, ma del potenziale che l'autore esprime, e questo premio poi consiste nel fatto che la casa editrice si dichiara disponibile a pubblicare le opere di questo autore, non quest'opera ma anche altre opere per un periodo di tempo concorrente. Mi è rimasta la curiosità di capire da dove è partito il racconto, perché questa è la fine di una storia un po' triste, quindi ha una motivazione spiegata inizialmente, oppure è un racconto che parla di un vissuto reale, però abbastanza triste per me. Allora, in realtà è un po' complessa la genesi di questo racconto. Questo racconto in realtà fa parte di un romanzo, per l'appunto, che si chiama La graffite e il disarmante, che, almeno, così l'ho intitolato io, poi non so se piacerà, ed è la storia di un uomo che ha la passione della scrittura e scriverà in un modo un po' particolare le sue storie, e Arco di Trento è una di queste storie. Questa, in realtà, questa storia fa riferimento a un episodio che capita al protagonista di questo romanzo e non a me, insomma. Poi è chiaro, no, per l'amor di Dio. In realtà, adesso io non ho la risposta a questa domanda, che è una domanda complessa, cioè come nasce una storia, no? Però credo che comunque chiunque scrive qualcosa di suo ci mette, no? Naturalmente, sempre. E quindi in realtà ci sono tantissime cose. Il conoscere, adesso non so se qualcuno di voi l'ha riconosciuto, certo, ma per quelli della mia generazione il conoscere era, no, come i 15, forse qualcuno si ricorda questo, no? Conoscere i 15 erano quelle cose che tutti avevano in casa, no? Quindi ecco. Quindi un po' questo, un po', vabbè, insomma, l'ambientazione di Arco di Trento, nel senso che lì esiste veramente un sanatorio, insomma, no? Almeno esisteva una volta, non so se esiste ancora. C'è ancora, perfetto. Quindi, insomma, alcune cose, alcune ispirazioni nascono da lì. Però il racconto è un po' meno triste di quanto appare nel finale, devo dire, perché, insomma, ripeto, cerca la normalità, poi alla fine, insomma, chiaramente la separazione fra il padre, il ragazzo e la madre, come dire, riporta alla non normalità, no? Ok, questo è il senso. Cioè il suo rientro e la tristezza finale tentava di esprimere proprio questo, no? Nel momento in cui esco dalla finzione della normalità mi rendo conto che non è così normale, quindi, insomma, no? Nasce la sofferenza. Poi lui, il protagonista, esprime la sofferenza in due parole, no? Cioè fra 10 minuti e lunedì, sì, no, finisce, certo, lì, cioè, non dice nient'altro in realtà, però, insomma, se si è arrivato vuol dire che, insomma, ha funzionato, meno male. Lì, se posso aggiungere, siccome ero in giuria quest'anno, no? Ti ricordi? Stavo per dirlo. No, voglio dire, la cosa interessante, adesso, a parte, avevamo da leggere questi 10 racconti selezionati, filtrati, no? Da questa prima giuria, ed era veramente interessante che c'era un buon livello, no? Ma è anche, questo tu lo sai da dopo, diciamo, non lo so, cioè anche io lo so dopo, eravamo tutti convergevamo sulla c'era cessata un problema di c'era un'unanimità di giudizio rispetto a una cosa che è anche interessante perché sono eravamo tutte persone molto diverse. L'argomento è libero, non c'è nessun vincolo. No, noi avevamo racconti, poi cioè, nei 10 racconti c'era di tutto, no? Anche se c'erano molte cose, c'è la cosa strana che molte volte le storie sono un po' tristi, cioè c'è questa tendenza, no? C'era un po' come anche l'espressione si diceva di un periodo brutto, no? Forse pessimista o però no, pessimismo. Sì, la cosa era interessante che poi c'è stata questa facilità, c'è stata una gara. Questo è interessante perché eravamo tutte persone molto diverse. No, la giuria non è che possiamo dire sono delle persone che hanno lo stesso concetto di letteratura o di scrittura o di. Questo per me è abbastanza interessante, perlomeno per me è stata un'esperienza interessante. Una cosa che non vi ho raccontato del premio letterario è che arriviamo alla serata di premiazione che si svolge sempre all'inizio di ottobre biennalmente, e è il clou, il momento apicale del nostro lavoro, perché fino a quel momento tutto si è svolto in un tran tran e in una routine che coinvolge pochi, ma poi appare al pubblico e ecco che ci troviamo in una serata al Teatro Puccini di Merano, dove ecco, con una certa enfasi che non è mal riposta diamo luogo alla serata di premiazione, e quasi sempre, fino ad oggi, anzi sempre, la serata di premiazione è poi abbinata ad uno spettacolo, vuoi di tipo teatrale, vuoi di tipo musicale, comunque abbiamo sempre collegato un evento alla serata di premiazione del nostro Merano Europa, che un po' sottolinea, un po' fa da cornice ed è degna chiusura di un percorso che mediamente è di circa un anno e mezzo. Ecco, tanto per darvi l'idea, in questi giorni stiamo pensando alla nuova edizione, il bando del concorso uscirà più o meno nel tardo autunno, poi gli autori avranno tempo più o meno fino ad aprile per presentare le loro opere, e poi c'è il rush delle giurie che tra aprile e settembre devono leggere, valutare, scegliere i finalisti, la giuria di secondo livello. Non è quest'anno che si prepara il premio per l'anno prossimo? Sì, no, nel senso viene preparato tutto nello stesso anno. Sì, sì, cioè, no, a cavallo. Sì, perché cominciamo adesso, diciamo settembre-ottobre, con la pubblicazione del bando che viene distribuito in giro dappertutto con varie modalità, mail, non mail, posta elettronica, riviste di settore, biblioteche, e poi ormai lo aspettano perché mi stanno già arrivando le mail, veramente mi arrivano le mail su info@passirio.it, vorrei sapere quando è la prossima edizione, quale sarà il regolamento. Al momento sto rispondendo alla prossima edizione, il bando uscirà in autunno, se vuole avere un'idea di come funziona vada a vedersi il bando che è ancora presente nel sito dell'edizione appena finita. Però vi devo dire che c'è veramente questa attesa, qualcuno non ha ancora capito che è biennale, quindi ci domanda ma quest'anno quant'è, allora gli devi spiegare che è biennale, però comunque c'è ecco un'attesa da parte delle persone che vivono nel mondo letterario della narrativa e che lo praticano e vanno a cercare quando è e se ci sono delle novità, perché ogni anno qualche regoletta la cambiamo, aggiungiamo qualcosa, togliamo qualcos'altro, e anche un po' per renderlo più vivace, per stimolare un po' ecco che non sia sempre il solito tran tran. E fatto questo, appunto in autunno pubblicheremo il bando, poi arrivano tutte le fasi a rotazione e direi in successione logica con delle date prestabilite, e senza alcun particolare problema poi approdiamo a ottobre del 2015 con una serie di preparativi, perché preparare la serata di premiazione richiede un tot di lavoro. Ecco, mi farebbe piacere che la Biblioteca Claudio Augusta in qualche maniera contribuisse, partecipasse, per esempio inserendo nella giuria che è di coordinamento di Paolo e vostri lettori o persone da voi segnalate, perché questo farlo di sicuro, perché è sicuramente interessante. Tante persone che sono dei forti lettori, li vediamo, tornano, amano la letteratura anche legata in qualche modo al territorio, ma non solo, insomma, quindi c'è anche la possibilità poi di fare dei gemellaggi anche, non so, virtuali sui siti, su Facebook, che sono social network ormai. Possiamo parlarne a tempo debito, magari ci teniamo in contatto. Qualche altra domanda? Una domanda. Le varie edizioni hanno anche dei temi particolari? Temi particolari? Sì, cioè viene deciso anche un'edizione, un tema. No, no, è sempre stato libero. Ci siamo posti la domanda. Quindi come si colloca il tema? Perché io sulle locandine che mi è stata inviata c'era scritto scrivere sul confine, quindi una cosa che mi ha. Ah no, ma scrivere sul confine è solo il titolo dell'antologia. Ah, ho capito. È solo il titolo dell'antologia. E fa riferimento al fatto che il premio letterario verrà in Europa. Quindi è tentativa di comunicazione o la fregatura? No, non abbiamo. Non ci pubblicare sul confine. Era più giusto. Esatto. Avremmo voluto, ci abbiamo anche pensato, però secondo noi poi alla fine. Tematizzare la cosa dandole un titolo significava poi andare a restringere il campo d'azione. Invece così arrivano delle opere le più varie. Ecco, una caratteristica, come diceva Aldo, che abbiamo avuto in quest'ultima edizione, ma sarà frutto dei tempi probabilmente, è che le opere che si sono, sono state presentate hanno tutte un che di melanconico e di triste, ma non, noi non avevamo dato il titolo parliamo della tristezza, non ridiamo, non c'è niente da ridere. No, se posso solo aggiungere una cosa veloce, poi, quando c'è stata la premiazione, poi insomma sono stati gentilissimi, no? Io sono andato con mia moglie, ci hanno offerto una cena molto carina, ero al tavolo con alcuni giurati, alcuni di loro. E una cosa che ho trovato incredibile è come loro avessero realmente letto con enorme attenzione il racconto. Questa è una cosa che mi ha stupito. Io ho partecipato a una dozzina di racconti vita mia e ne ho 25 o 6. Quindi ho avuto qualche altra esperienza di questo genere, ma l'attenzione estrema, cioè mi raccontavano dettagli che io non mi ricordavo assolutamente. Dicevo, ma quando lui fa così va bene, no? E questo secondo me è un segno di professionalità importante. Insomma, lo fa anche piacere perché insomma, vuol dire che hanno sono andati al di là del semplicemente scorrere con gli occhi, ma hanno letto, che è una cosa più profonda. Grazie. No, davvero, grazie a voi. Una sola domanda a te, insomma, come rappresentante di coloro che partecipano ai premi, no? Secondo me qual è il giro? Perché in effetti ci sono moltissime persone che lo fanno, no? Cioè nel senso che i numeri dei manoscritti è alto, e soldi di gente, poi abbiamo visto che i premi, gente che già fa lo stesso racconto, un altro premio, questo, cioè, come funziona l'informazione su questo? Cioè c'è uno clic, allora, premio. Posso dirti la mia esperienza, sì, sono due canali, uno vabbè è tipicamente il canale internet, sì, ovviamente ci sono, sì, un sacco di siti eccetera, l'altro è un passaparola, ci sono alcuni siti di scrittura, io ne frequentavo qualcuno, sì, tanti anni fa, adesso non li frequento più, dove insomma si parla un po' di questo, quindi in realtà è quasi sempre internet o passaparola, non c'è altro. Devo dire che è inutile negarlo, insomma, no? Che una discriminante è sicuramente il premio, nel senso che la cifra, no? Questo sicuramente è una cosa che sì, assolutamente attira, questo senz'altro, e devo dire insomma conta abbastanza anche il discorso dell'anonimato di chi. Sì, questo è una caratteristica, cioè i giurati si trovano davanti delle pagine con scritto sopra 298. Chi è 298? Lo sappiamo solo noi dell'organizzazione, lo teniamo custodito molto gelosamente in un file criptato e lo tiriamo fuori solo al momento finale. Quando Paolo Valente mi ha detto: questa è la classifica dei primi 10, sono i numeri questo, allora vado ad acchiappare il file di nuovo e abbino nome con numero. Come di concorsi pubblici, insomma. E in quel, solo in quel momento si sa chi è. Potrebbe vincere uno scrittore famoso come un minuto sconosciuto, ma sono alla pari. Sì, nel bene grammatico per condizionare. Sì, in tutti i due sensi. No. E al nostro vincitore potremmo chiedere se ha partecipato ad altri concorsi con risultati così. Sì, come dicevo, ho partecipato a una dozzina di concorsi, ne ho 26, mi sembra, se non sbaglio. E, sì, quindi ho avuto quindi un po'. Una notevole esperienza. No, non è, sempre racconti brevi, sì. No, non è una notevole esperienza, perché sono pochi alla fine, senz'altro. Quello che ho notato è che è abbastanza difficile, come dicevo prima, esprimersi su un racconto molto breve. Almeno io personalmente ho grosse difficoltà. Quindi sì, va bene, ok, poi è andata bene, qualcuno l'ho vinto, d'accordo. Però insomma, il racconto di solito, guarda, io penso che la media sia, parlo in cartelle, non so dire quanti sono i caratteri, però diciamo dalle 5 alle 7 cartelle, a volte addirittura anche 3. Ed è difficile, perché sviluppare un personaggio, tu lo sai, ci metto tanto a raccontare un personaggio. 15.000. Adesso? 35.000. È il doppio. Per la gioia dei giurati. Quante pagine sono? 35 battute, sono 32 pagine, una trentina di pagine, una trentina di pagine, 32. No, si riesce assolutamente, ma sono veramente pochi quelli che danno questa possibilità, devo perché dire. C'è il problema della lettura, c'è il problema della lettura, naturalmente, però insomma, per me questo è, insomma, è molto bello. Negli ultimi anni, sia in Germania che in Italia, ci sono molte persone di origine straniera che si sono dati a scrivere, insomma, racconti o romanzi o poesie. Vi è capitato di avere tra i partecipanti persone? Sì, ah. Sì. Adesso non mi chieda i nomi, non li ricordo, ma c'erano. Questa è una cosa che ci ha colpito moltissimo, perché devo dire che questo aspetto si è presentato nelle ultime due edizioni del concorso, ma più in generale la partecipazione su larga scala a livello nazionale l'abbiamo avuta sin dalla prima edizione, e questo, diciamo, non è poi del tutto facile e scontato. Pensavamo di fare una cosa che stava nei confini della nostra regione, e invece già all'inizio il vincitore veniva da Roma, per esempio, no? E non c'era ancora internet. Adel diceva, secondo me, scusa, ci sono dei personaggi, no, che scrivono in italiano, non di madrelingua italiana. Sì, no? Sì, sì, mi riferivo. Sì, sì, sì, erano almeno dai cognomi, non erano italiani, ecco, sì, li abbiamo avuti, non dico chissà quanti, Sì, sì, sì. Siamo nell'ordine di grandezza della decina, però ci sono stati, anche perché questo fenomeno che lei descrive è un fenomeno abbastanza recente, quindi diciamo, noi che siamo biennali, posso dire che nelle ultime due edizioni, quindi 2011-2013, abbiamo visto questo fenomeno, prima no. Ok, sto guardando i nomi della giuria, i nomi passati. Ce ne sono tanti che sono venuti qua in biblioteca da noi, quindi possiamo veramente dire che è una bella realtà, insomma. Grazie, è stata veramente una grazie, grazie a voi. E rimaniamo in contatto con sì, molto volentieri.